L'avevo detto che nato dovevamo fare la puntata prima del saggio. No, no, io l'avevo detto. No, io l'avevo detto. Ma non ci provate. Paura, eh? Vabbè, l'avevamo detto un po' tutti, eppure siamo qui. Quelli che non vedi, perché non sono più quelli che cerchi veramente. Si nutrono della paura della gente, senza terra verde, la musica si riprende. Invece siamo qui, ci manca un tecnico, manca qualcuno che no, che prenda le redini delle redini, eppure io, cioè veramente una puntata che la vedo malissimo, le basi, dico le subito basi. Le basi, allora con quello si abbassa, no? Sì, ma il problema è che non si è abbassata la musica, quindi sono in crisi. Il basso crisi. Parla più forte. Va bene, parleremo più forte. È bellissimo questo inizio di 25 febbraio, sabato 25 febbraio, in diretta su Radio Forte 100, Celle Avengers. La confusione la fa da padrone, non pensavo, vi giuro, che l'avrebbe fatta così tanto da padrone fin dall'inizio, e invece no. La mancanza di colei che appunto avrei presentato, che invece è sostituita quest'oggi, sempre alla mia destra, da Virginia. Sono solo nella stessa posizione, ma non sto muovendo affatto le mie mani. Ma stando in quella posizione si assume la responsabilità di qualsiasi cosa accada. Va qualsiasi bene, cosa me la collo. E alla mia sinistra invece, a occupare il seggio papale di Virginia, quest'oggi invece c'è Franci. Mitico! Omeosi! Ciao, ben trovato. A seguire la giornalista faziosissima Gabri Grubi. Ciao, buonasera! Ormai è applauso per tutti, qui. Niente, c'è stato un ingresso veramente trionfale anche per la maestra professoressa Viola. Una super caciara oggi. Ciao a tutti, ciao, grazie, ciao belli. Molto molto molto bene. Chissà perché quest'oggi c'è tutta questa allegria, non c'è niente da ridere. Ma niente. Io proprio provo a creare un attimo di tensione. No, vabbè, era troppa. Pensavo fosse stata io. Era, no, c'è fermento era un nell'aria. Tentativo per. Ma chi è che cambia di volume? Non capisco, c'è qualcosa da dire. Non lo so, io comunque Betta ci ha già scritto. State zitti! Ci ascolta, Betta, dove sei finita? Betta, dove sei finita? La dotta Betta, ciao Betta. La dotta Betta, la salutiamo, che è a casa. Grande Betta. Non e ci sente affatto la tua mancanza, Betta, tranquilla. No, assolutamente, ci abbiamo messo zero a andare vai a zampe pure per aria. E quest'oggi tra l'altro siamo privi di un tema, ma non privi di un'ansia produttiva, diciamo non da poco, non da, cioè tipica della vigilia. Scusate il GL, ho sempre vigilia. Come romano poi lo dico abbastanza male, c'è chi fa dizione mi corrigerebbe qualche lezione di dizione. Comunque quest'oggi con una G sola abbiamo appunto tutto un carico di contenuti che scavano nel passato per proiettarci al futuro, ma al futuro prossimo, quello di fra 24 ore. Precise, mi sa, sì. Quasi precise. Se diciamo cosa che domani a quest'ora staremo ore? Lì a fare cassa, rullo, stack. Check, o comunque check. Ci sarà quello che si chiama il soundcheck del saggio di metà anno della scuola di musica. Musica. E su questo, grazie. Mitici. Per aver sottolineato quello che sarà praticamente l'argomento che tiene banco quest'oggi, senza fare prigionieri praticamente. Ma riusciamo un po' a abbassare quindi la sigla, perché comunque quindi non so solo io. Ti dà fastidio la sigla? No, la sentivo. Ma veramente? No. Dai, vabbè, hai ragione. È un po'. C'è del malfunzionamento, ci sono dei disservizi che non vi starò ad elencare, perché questa è comunque una puntata allegra. Sapete che puntata è? Al numero. Questa sono è una puntata di allegria. Se l'altra volta i gatti erano 44. Siamo alla puntata numero. Niente, lo dice fra mezz'ora comunque. Non era calcolata bene sta cosa. Sentiamo, bellissimo, calcolata come tutte le cose. Mi aiuta a dire comunque che ci sono anche delle coordinate, dei canali dove potete protestare per i disservizi che 100 Celle Avengers quest'oggi sta propinando a profusione. E nel frattempo che aspettiamo vorrei anche dire, no, che abbiamo un canale appunto Telegram che si chiama Radio Forte 100 Celle Avengers, dove potete parlare della puntata. Scaricate. Quale puntata? Non ho sentito, quale puntata? E niente, tutta così la puntata di oggi, ve lo dico, e ci ascoltiamo Brimful of Asha di Total Show. Celle Avenger è molto meglio di qualsiasi cosa abbiano lassù. Radio Forte 100 Celle Avengers, chissà che succede ancora, io mi sento pure, spero poi sì a me, e quindi e quindi che succede? Allora, sui nostri canali intanto già ci scrivono numerosi, numerosissimi, ricordiamo il canale Telegram HTTPS, questo lo potete scrivere direttamente sulla barra, diciamo, degli indirizzi https://100celleavengers. Scriveteci, comunicate con noi. Intanto Betta ci scrive: sono qui, tecnico fuori sede, ciao. Eh sì, vabbè, mo sono qui, sono qui. Smart working. Già abbiamo salutato. È arrivato anche un messaggio, mi sembra, sul canale Telegram. Non so se è arrivato anche un messaggio vocale, è vero? Cioè di quello che arriva. Ciao ca, scusami se ti disturbo, volevo chiederti una gentilezza. Sì, c'era la trasmissione, ma per quale motivo un invio link? E c'ha ragione, e c'ha ragione. Come dare grande top. Tra i nostri veramente fan migliori, fans, c'è anche il Treccia sul canale parallelo, a dire la verità, Radio Forte, che ci scrive: ma Iron Man è morto o è una fake news? È morto. Posso dire in questo ah, momento? Ah sì? Di sempre giù. È appena risuscitato. Abbiamo ucciso Iron Man. Non so come è successo, ma adesso è risuscitato. Grazie maestro per averci ricordato di salutare il nostro device. Consiglio. Non sta morendo ora. Ah, grazie che mi alzi il volume a me e non a te stessa, Gabri. Comunque è bello anche perché siamo una web radio e siamo anche in video. Per chi ci vuole guardare che facciamo queste cose, non è possibile. Non è possibile farlo. È stato possibile in una certa, diciamo, circostanza storica che ormai è passata, fa parte del passato. Potete immaginarci su e quindi un po' appunto sempre scimmiottando questo ritorno al passato, che cosa succede adesso? Che tutta questa puntata è pervasa di ricordi e quindi è tutta un grandissimo Centocelle Amarcord. Per chi ricorda cos'è Centocelle Amarcord, la rubrica del saggio che non ricordavi di aver fatto. Cosa succede però? Che oggi, quest'oggi e solo quest'oggi la musica mi sta facendo sbroccare. Solo oggi però, cioè, di solito mi fa molto piacere questo sottofondo. Io adesso spacco tutto, ma invece di solito mi fa piacere. E, che cosa succede? Che adesso abbiamo la rubrica la cui sigla è questa. Ricordami di te com'eri prima. Un'estate fa, l'anno vecchio è finito ormai. Un'estate fa, i ricordi. Un'estate fa, tutti quanti stiamo già aspettando. Un'estate fa, messaggio che è un nuovo anno. Mi ricordo che anni fa. Un'estate fa, ricordati di me. Oh, in questa rubrica che si rinnova ogni anno e porta nuovi contenuti, a quale saggio ci rifacciamo? Io quando ci ho pensato ho detto faccio un ricercone che proprio faccio tutte le annate con manco in enoteca con i vini, veramente 19, 20, 21, quello chiusi, quello aperti, invece alla fine mi sono rifatto solo a un saggio, quello del 2020, il quello saggio che, del cuore. Che ci vede, diciamo, sempre in quella sala concerti dove domani saremo. Siamo in quello spazio così angusto, quello che vede anche la nascita di, esattamente, la nascita di Iron Man, almeno diciamo nel nostro primo progetto, il Mark 1, lo possiamo chiamare. Perché ora poi, so che vuol dire. Perché poi diciamo è alle nostre spalle poi i resti del Mark 1 e in effetti poi insomma avremo modo anche di parlare di questo fatto, di questa scimmia che mi ha fatto risalire qualcuno andandosi a ripescare dei film, parlare già da subito, di ripensare a come stavo pure io con gli attacchi di panico a costruire diciamo la testa di Iron Man, soprattutto la testa. Comunque appunto mi rifaccio soprattutto a quel saggio lì che talmente era la scimmia di fare coincidere diciamo con l'uscita dell'ultimo Avenger che mi cominciava così addirittura. Ci continuo a parlare sopra perché comunque è lungo, questo è un gruppo formatosi durante quell'anno, si chiamavano gli Ukulengers, erano formati appunto da diversi tipi di ukulele, ukulele soprano, ukulele contralto, ukulele tenore e ukulele basso, tutti suonavano uguale, sol, do, re, mi. Soldo Milà. Tutti insieme formavano mega ukulele. Ma tutti insieme, esatto, erano una specie di leone, sì, esatto, mega ukulele gigante. Nessun riferimento a leoni meccanici dei manga. Tuttavia, aprivamo così quel saggio lì che poi appunto ci avrebbe visto per un paio d'anni vederci in tutte altre modalità. Lì invece eravamo tutti mischiati, eravamo ancora insieme, era il 2020, non c'erano neanche lo SDOS, lo Squatros, lo Cinco Elemento, cazzo, eravamo tutti numeri ammucchiati e si sente, e non accordavamo sempre l'ukulele, comunque facevamo qualcuno sì, qualcuno no. Ma faceva parte del nostro essere. Perché tu ci avevi fornito di ukuleli che si accordavano direttamente dall'ukulele. Ma noi vogliamo utilizzare i telefoni, diciamolo ad alta voce, questo. Facciamo un shaming. A proposito, per domani già ho imbruttito a tutti, non si usano accordatori alla paletta, solo accordatori a capo. E sentiamo come siamo accordati qui. I just wanna lay in my bed. Don't feel like kicking up my phone. Just leave a message at the door. Cause today I swear I'm not doing anything. I gotta kick my feet up there, stir up the fan. Till my knee feet off, then my hand in my bed. Nobody can tell me I can't. Gonna teach the ninja, cause telling me my doggy. watching out to be taking tend you out of doggy. Cause in my castle I'm the freaky man. Oh yes, I said it, I said it, I said it does I can. Today I don't feel like doing anything. Cause today I swear I'm not doing anything, nothing at all. A really nice girl, have a really nice sex. And she's gonna scream, I'm Mrs. Gray. Oh my god, Mrs. Gray. Yeah, I'm a nice man up with a college degree. With a mom and be so proud of me. He might have it half that two way. Ooh, yes, I said it. I said it. I said it goes again. Today I don't feel like doing anything. I just wanna leave my bed. Don't feel like kicking up my phone. Leave a message at the tone. Cause today I swear I'm not doing anything. No, I ain't gonna comb my hair. Just leave me anywhere. No, no, no, no, no, no, no, no, no. I just come in my bed and swear. I just wanna lay in my bed. Don't feel like kicking up my phone. Little message at the tone. Cause today I'm not doing anything. Nothing at all. Cento celle avanti. Oh ma! Di nuovo in diretta su Radio Forte, Cento Celle Avengers. Franci, abbasseresti la cassa come faceva quando c'era qui Virginia, ti ricordi? Quando c'era questa, lei, stavi quando c'era dicendo? Lei. No, no, no. Giorgia. Ok, fatto, grazie Franci. Oh, mi guardava come se fossi pazzo, ma è bello perché comunque, ripeto, piacere, il video ci permette a tutti di vedere queste gag e di riderne insieme, soprattutto gli ascoltatori a casa. Molto bene. Abbiamo ascoltato Lazy Songs, Lazy Song. Niente, che ci ha fatto semplicemente ricordare che la Mark 1 aveva dei problemi nell'ossigenazione di colui che decide di cantare con lei, cioè, insomma, posso ricordare, se potessi tornare indietro, avevi un microfono nel casco. Avevo un microfono nel casco, ma soprattutto cercavo anche di muovermi perché di respirare, no? Cioè, Gabby mi ha preso per il culo per un paio d'anni con me che facevo e mi muovevo, diciamo, a scatti. Stavo versione, per svenire. Una versione di Iron Man molto coccolosa, come dire. Stavo per andare in iper, non so cosa. Comunque è stato bello ripercorrere quella come tante altre vicissitudini che dicevamo che erano esattamente 2 anni fa, febbraio 2020, da lì a poco poi ci avrebbero chiuso, ma è stato un saggio da lì a 4 giorni, tipo. Inizio febbraio. È stata tipo una delle ultime, anzi l'ultima cosa che il Forte ha fatto senza appunto... In libertà, cioè, ancora si diceva ma sta cosa ma sarà, boh, non sarà, poi dopo 2 giorni eravamo chiusi di brutto. Qualcuno aveva già paura. E, no, in realtà poi ci rivedemmo una volta per ricominciare, era il briefing. Hai ragione che si avventurarono anche nuove persone. E provammo anche dei pezzi, mi ricordo che provammo il pezzo dei Beatles. Hey Jude, mi sa. Oh, sì. Mamma mia. Una volta così e poi... E invece poi no, niente, e poi niente, tutti a casa, tutti a casa. Avranno portato sfiga ai Beatles, secondo me. O forse Iron Man che ballava i Bee Gees. Va bene, va bene. Okay. Ma a proposito di sfiga, cerchiamo di non portarla troppo sul personale. Prego, prego, stavi dicendo, Gabri? No, stavo anticipando il punto numero 10 tra omifonici, ma ancora ci manca un po'. Punto numero 10, stiamo al numero 2. Siamo ancora al numero 2. Anzi, il numero 3. Ringrazio Virginia per la scaletta che è impeccabile. Oggi no, oggi no. Il numero 3 infatti prevede, diciamo, che si comincia a esplorare quelle circostanze che possono accadere al saggio. Cioè, noi parleremo di tutti gli aspetti del saggio, quelli belli, quelli brutti, quelli che possono insegnare, quelli che ci tormentano, no? Ognuno ha i suoi punti deboli. Scelta. Abbiamo appena sentito appunto un maestro desueto che cercava di cantare con un casco in testa, e, cioè, può succedere di tutto. Ma questo certo. questo personalismo di cui si parlava, questi attacchi personali che si verificano a Centocelle Avengers, dopo tutto quello che ho fatto per te, tutto sommato si possono definire, se vogliamo, dei colpi bassi. Quindi, avendoci proprio la sigla così a portata di mano, ma nonostante non sia la mia rubrica, va bene, mandala, dai. Sigla. E state zitti! Radio Forte, Centocelle. No, non fare che non mi metti la musica per rappresaglie. No, non mi guardare così, Virgi. Scherzavo, grazie, Virgi. E... ma sei sordo. Niente, colpi bassi su colpi bassi. Virgi, in effetti, non vorrebbe che io andassi avanti, ma lei in realtà ci mette la faccia e per la professionalità. Ma soprattutto c'è una cosa che mi fa dire va bene, perché questo colpi bassi parla di me. Oh, e comunque. Male. Bisogna dire che Virgi non parla mai di sé, è competitiva, non è. Esatto. E quindi quest'oggi che succede? Che Virgi vuole comunque insegnarci qualcosa attraverso la sua stessa esperienza di vita. Ah sì? Sì, ma cioè io vorrei farla lunga. Che è successo, Virgi? No, allora anzitutto io vorrei, cioè, perché è una cosa che si riferisce, come ho detto, al passato, ma poi ci troviamo delle lezioni che valgono per il futuro prossimo, per domani, scuola, per domani. Certo. Allora, domani c'è questa moda del rat. Allora, cioè, fondamentalmente ci sta un fenomeno della moda del device fra i musicisti, bassisti e chitarristi, ora intendo, perché poi sono quelli che più di altri acquistano pedalini che fanno cose. Gearhead li chiamano in inglese, cioè a livello spregiativo, testa di device, insomma, quando uno sta in fissa che si compra l'ultimo pedale uscito ogni volta. Comunque, vabbè, ma adesso c'è la moda di questo rat, un pedale che, insomma, fondamentalmente distorce, come quando c'era la moda del Big Muff. Non so se chi se lo ricorda, il Big Muff, non hai nessuno senza il Big Muff, ma tutti con rat. Quindi domani ci saranno un esercito di rat sul palco fra chitarristi e bassisti. Io sono preoccupato perché cioè, comunque ci sta il lato tecnico della questione, che fa appunto suonare un po' sempre uguale la situazione. Se ognuno arriva col suo pedaletto e mi fa il panico, io non, diciamo, fare così. Hai ragione. Non è tra omifonici, posso dire che una cosa l'ho imparata da quello che stiamo per ascoltare, ovvero io non me lo porterò mai più. Come, Virgi, non c'hai un rat pure tu? No, ma che sono impazzita? Eppure io ricordavo. Eppure io ricordavo che Virgi aveva un rat. Ce l'ho, ma non lo userò perché ora scopriamo perché. Allora, no. Ricordiamo che il rat appunto è una scatolina che distorce il suono, quindi fondamentalmente per i bassisti è più raro, cioè non dico che, cioè, voglio tarpare le ali, ma il basso lo si sente molto più spesso, diciamo, nella sua versione pulita, mentre la chitarra distorta è un classics. Dov'è che il basso può necessitare di... con quei gruppi particolari, come ad esempio erano i Muse, e quindi Virgi doveva fare i Muse, e niente, togliamo la musica di sottofondo. Cioè qua l'ha messo pure dopo. Però l'ha è messo. Lì che mi sono resa conto dell'errore. Doppio rat. Questo è il rat. Non è stato messo dopo. Quindi è stato messo prima, ma in realtà è stato spento. Ecco perché è stato rimesso dopo. Insomma, fondamentalmente questo Zanzarone doveva esserci sui Muse, ci stava tutto, come insomma i fan dei Muse sapranno. Accetto. Però questo forse è proprio quell'entrata in ritardo che lei sostiene. No, ma mi è sembrato di sentire un'entrata in ritardo, forse è stato quello che l'ha poi... Spiego. L'ho inserito all'inizio, ma non l'avevo inserito, lo avevo spento, capito? Okay. Perché era stato acceso prima e sappiamo tutti che era stato acceso prima, no? Sappiamo tutti. Sta di fatto che nella confusione che si è creata in quel giorno, che è la stessa che avete sentito adesso praticamente con questa spiegazione mia e di Virgi, poi dopo il palinsesto del saggio andava avanti con pezzi che non annecessitavano di quel artificio, ma ormai il ratto era acceso. Cioè un po' spoetizzante. È bellissimo, no? Può essere stata una versione voluta. Sa di fatto che è un po' così, un po' squadrata. Ma dove comunque riempie molto. Dove il vecchio rattone ci ha dato veramente la grande soddisfazione, l'ha data soprattutto a Virgi, che non si toglie più questo trauma fonico musicistico dalla testa. Mai più questo. Prego. È un'ottima pubblicità ora che ho iniziato a lavorarci con il pazzo. No, ma questo è proprio per dire che tu sei andata oltre l'ostacolo e per quello che oggi se ne ride. E quindi enjoy the Virgi. Qui c'era pure Franci pronto a fare il panico, no? Tutti, oddio, è quella! Ricordiamo, Franci ha suonato 4 chitarre nello stesso pezzo in quel momento. Pronti con Rat. Ci sta benissimo, che vuoi? Anche qui, secondo me, Depeche Mode avrebbero apprezzato se fossero stati presenti. Sa di fatto che niente, il colpo basso è finito, Virgi non mi parlerà più, penso non mai si metterà più. Mai più al mio fianco qui in console. Ed si sono liberati 2 posti, una a destra e una a sinistra. Ed è per omaggiare Virgi che io cerco diciamo di fare ammenda e di citare quello che ancora non l'ho citato, però ho capito. C'è un applauso così a caro. L'applauso a Virgi, l'applauso a Virgi che ci ha messo la faccia. Che sono anni che insomma è la nostra colonna portante della trasmissione, del bar, e niente, si è beccata a suo colpo basso, perché comunque questo è quello che può succedere al saggio, va bene? Ma bisogna andare oltre. E quindi adesso noi, sempre in onore a colpi bassi a Virgi, ascoltiamo Dear Iaco, che Iaco insomma per chi no, solo Virgi lo sa che è Iaco Pastorius, e... Vabbè, scusa Virgi, non una sanno. Puntata di colpi bassi futura sarà in una puntata sarà introdotto Giacomo Pastorius direttamente dal maestro di basso un giorno quando riusciremo a incrociarci. E fuoco Ruggè, fuoco Ruggè. Esattamente, Dear Iaco è un pezzo di una band che probabilmente non c'è più, perché sono quelle band che si formano per dei periodi di grandi musicisti, il bassista della quale era il nostro primo, e questa volta dico primo come lo direbbe Virgi, bravo il primo maestro di basso della scuola di musica forte, Leonardo Giuntini, che salutiamo. Leo. Ma anche detto maestro Leo. E questa è Dear Iaco, ovviamente gli ho detto che la mettevo, però vabbè. Forte, e queste 100 celle aperte. sempre in diretta su Radio Forte 100 Celle Avengers, in questa giornata di giubilo che anticipa il saggio di musica di domani, domenica 26, in sala concerti. Cosa succede? A partire dalle ore, diciamolo. Ah, diciamolo, a partire dalle ore 20, come 20 saranno più o meno i pezzi che andremo a fare. Sì. Perché mettiamo insieme un palinsesto diciamo ristretto rispetto all'ultimo presaggio che avete ascoltato in quel di ottobre. Era ottobre. Che no, durò solo 4 ore e 26, 41 pezzi con presentazione. E, diciamo, la gente se ne andò abbastanza col sangue alle orecchie, ma con tanto entusiasmo, così come domani. Sì, vi invitiamo infatti a venire a partecipare, anche perché diciamo non saranno quelle 4 ore, appunto sarà una domenica sera abbastanza soft. No, addirittura diciamo. Così, oh, venite, non va attaccare la VIP. Allora, dai. Vabbè, stavolta potete venire. Il saggio di metà anno è sempre così, ecco, una preparazione degli allievi che intanto scaldano i motori in attesa del concertone, e poi warm c'è up. Generalmente in estate. Vero. L'anno scorso eccezionalmente a ottobre, ma insomma. Una giovane istituzione questa del saggio di metà anno, abbiamo già detto che nata appunto per dare quel pepe alla scuola che se no già si smosciava a metà anno, non sapeva già più. Va bene, e quindi era per dire che sto andando già a lungo. No, dai Iron Man, ti prego, cioè sii paziente almeno quest'oggi, subito pure lui che la confusione chiedo fa... scusa. Ok, grazie Iron Man, sei sempre puntuale. Che succede? Che quest'anno, quindi sì, nei 20 pezzi che ascolteremo sono contenuti quelli della musica di insieme, non solo la somma dei solisti più i musicisti di insieme, ma in questo momento andiamo a parlare proprio di questi ultimi, cioè coloro che prima divisi in quattro, ora divisi in dos elementos, rispondono più o meno al nome confidenziale di Gemma e Mirko, se non altro perché non si capisce mai di che stavo a parlare. La rubrica quella di... l'unica certezza che abbiamo è che c'ha una sigla. Fettine panate. Fettine panate. Fettine panate. Fettine panate. Che promette di essere l'abilito più seguito della storia del... Ed è proprio qui che cominciate a pagare. Non siete in competizione l'uno contro l'altra. Ripeto, non siete in competizione l'uno contro l'altra. Il mio nome è Jenny. Tanto canto qui per voi, per pensare. Sono una cantante, lo so. Il mio nome è Jenny. Pensare, sì, tu penserai a me. Siamo sempre un'emozione. Solo competizione violenta, è per questo che sei qui, Che c'è? Mi sono scordata le fettine panate. E in diretta su Radio Forte 100 Celle Avengers, mentre in un ciaco cadono. Ma vuoi che noi non si sia in questa settimana che precede il saggio spiato la scuola con dovizia, con tecnologie varie volte allo spionaggio, tipo... Oh mio Dio, è tornato. Un applauso a DR100 che mi ha staccato una vecchia. Complimenti, bravo, bravissimo. Il nostro registratore de una volta, colui che di nascosto carpa. Risata. Oh, che ridere. Anche Alexa. Sì, anche Alexa sta arzilla. Bisogna dire, betta dove sei. Comunque, in questo momento. Bene, bene, DR100, quindi due squadre, dicevi. DR100 è andata a sentire. Mi si presenta. No, ma in realtà no, non è che. No. Cioè, diciamo che ha fatto una cosa un po' confusa, perché poi DR100 si confonde nel clima della giornata di mercoledì, che è quasi sempre, diciamo, la giornata delle prove, la giornata della musica, però che parte in enoteca alle 5 più o meno, l'appuntamento con i primi studenti che vogliono chiacchierare di come va la vita musicale, si vedono già alle 5, quindi si arriva poi alla lezione delle 9, che lo stesso DR100 non sa esattamente che contenuti mi ha carpito. Per esempio, Viola, cantante e chitarrista, la sentiremo esibirsi a questo fantastico saggio degli allievi della scuola di musica Forte, sentiamo le sue emozioni. Allora, Viola, ciao a tutti, buonasera innanzitutto. Buonasera, buonasera. Parlaci un po' allora di queste emozioni, le balenano per questo saggio imminente? Sei preparata? Ma guarda, ansia ancora l'ho, però credo che mercoledì ce l'avrò, le ultime prove, il giorno decisivo. Già no, vabbè, ci vedremo un'altra volta. Sì, comunque sì, allora sono però sì, emozionata, sono contenta. Qual è la premessa? Allora, e poi c'è Biascicone. Allora, faccio prima la post-messa. Ma chi è questo? Troppi Avengers. Ma chi è sta caponata? Premesse, prequel, ho visto Ant-Man e Black Panther per capire questa cosa. Non c'è spoiler. Noi l'abbiamo visto tutti. Comunque vabbè, insomma, a me a scuola mi chiamavano Suarez. No. Come è il mio cognome? Cioè, siamo venuti a calare le braghe in enoteca. Aspetta, allora dici a fine serata. Daniele Suarez. Alla faccia della privacy. Vabbè, viene certo. È la prima volta che si presentano. Radio Forte. Pure il codice fiscale. E niente, per chiudere abbiamo questo. Suono, Pepe è un po' rincoglionito, quindi arriverà per le 5:30. Io sto parcheggiando, tu lo vuoi un caffè? A cosa racconta questo? Questa era la vita. Scusate, un applauso, hai ragione, un applauso è dovuto alla maestra Serena Loguzio. La maestra quale, di canto parla così. La quale parla sempre così. Ma soprattutto quando sei nel momento più di diciamo scoramento e non sai proprio che stai facendo alle 5:30 aspettando Peppe appunto per fare delle prove, lei ti manda questo vocale e ti fa capire che la vita può essere vissuta in tutt'altro modo grazie alla musica. Mi sono fatta applauso da solo per questa troppo, cosa. Bravo. Comunque, per far capire che lo stress c'è stato sia per gli studenti che per i maestri nella preparazione di questo che è l'evento del mezzo anno. Questo è il numero 9 di saggio, 10. Parliamo di Biascicone, perché anch'io non è che stavo. Vabbè, eravamo in enoteca, si sentiva, dai. Ma pure di R100 biascicava, non preoccupate. Sì. Allora, qualcuno deve aver inavvertitamente schiacciato REC nel momento, si è appoggiato nel momento in cui c'era questo tipo Biascicone, che poi è stato cacciato dall'enoteca, penso, quella sera. Ma c'è nome e cognome. Perché dava fastidio a tutti. Perché io mi chiamavo ai tempi miei, quando non la si suona. Che profondità di Beh, comunque sì, i contenuti ce l'aveva tutti, però diciamo va un attimo digerito. Biascicone non è un personaggio facile, al forte gli stiamo presso, ma poi ogni tanto io dico, Biascico scollate, perché... E niente, comunque va a finire qui questo reportage di Mirko and Jam, la parte diciamo d'insieme della musica che si esprimerà domani al saggio di musica. Forte, sala concerti domenica 26. E ma cosa succede invece adesso? Passiamo, mi sa, che c'è un momento storico. Punto no? Numero 5 della scaletta. Niente, siamo burocratici come. E quindi cioè, ci sto piace per avere dire un che ordine. Nasce una nuova rubrica. Allora, nasce una stella e. No. Addirittura. Cioè. Introduco. Prego, prego. Da me. La nuova rubrica. Scusate, un attacco di tosse. Ma ce l'ha la sigla questa rubrica? Allora, ha una sigla che magari passerà per una rivisitazione, non è forse la versione finale, ma c'è. Signore e signori, stiamo per presentarvi la nuova rubrica di 100 Gel Avengers che si intitola Brocardi. Prego, sigla. Ah, conosco questa. I più già avranno intuito che scendiamo, diciamo, nei meandri anche un po' del passato, quei momenti di trasmissione di contenuti culturali elevati, ma anche, diciamo, del tutto popolari, anzi, che prendono spunto proprio dalla quotidianità, dalla vita, di quello che accade. E insomma, Brocardi, la nuova rubrica che vado a presentarvi, anche perché... Appunto, stamane ho buttato giù una piccola sinossi, non avendo ancora una sigla completa, che comunque ben presto questa rubrica sono certa che avrà. E vado a leggere questa piccola sinossi, vediamo di cosa si tratta. Quindi, Brocardi in padella, precisamente il titolo della rubrica, che nasce dalla voglia di friggere contenuti croccanti, quindi un concentrato di messaggi positivi, di motti, di proverbi, di citazioni, da servire ben caldi e croccanti, ottimi per tutti i palati, per quelli più digiuni di massime di vita e per quelli già più ricchi, pieni, rimpinzati, che quotidianamente ne fanno incetta. Non c'è l'applauso, mannaggia. Però poteva essere... Non le vado tutto. Grazie, grazie, ecco. Di incoraggiamento, perché insomma è ancora, ripeto, fresca e neonata. Ma perché? Ecco, andiamo a parlare di brocardi. Questa mattina mi sono svegliata e ho trovato la sorpresa. Mio padre ha portato a casa i cardi. Esatto. Questo è il motivo fondamentale, ecco. Diciamo che ai più non sfuggirà il fatto che è un termine, diciamo, che non tutti conoscono, è anche abbastanza desueto. Insomma, io ho domandato, ecco, potrei parlare di brocardi. I più appunto mi hanno risposto: ma che cos'è un brocardo, scusami? Forse quei cosi verdi che si fanno in padella, che appunto abbiamo sentito, spesso si fanno della famiglia dei carciofi. Allora, ho deciso di preparare cardi in padella, ma prima di tutto dobbiamo andare a pulire i nostri cardi. Esatto. Gattini. Io sono molto confusa in questo momento, comunque. Io pure, tutta sorpresa. Allora, ne diamo anche una velocissima definizione, proprio perché non parliamo di coccarde, non parliamo di propriamente di verdure o ortaggi, ma con brocardo si intende una massima, ok? Una massima che più delle volte è latina e con cui si esprime un principio giuridico. E sono anche un po' un pilastro della nostra cultura occidentale, nel senso che spesso ci troviamo a dirlo, a parlare per motti, appunto, e non ci rendiamo conto che stiamo appunto pronunciando un brocardo. Ora ti riconosco. C'ho la musica sempre molto a palla. Grazie. Ho appena posto un rimedio un po' drastico. Allevato. Tutto. Oh, ma proprio perché, diciamo, attingiamo a quello che ci accade intorno, parliamo di saggio, giusto? Siamo qui a parlare del saggio che domani ci sarebbe, vede coinvolte queste due squadre, lo SDOS Elementos, appunto, GEM e le Holograms e ABI. E cosa ho scoperto? Diciamo, è giunto alla mia attenzione questo fattaccio. E, una delle allieve che in particolare partecipa al gruppo dei GEM e le Holograms si presterà per un cameo, diciamo, una partecipazione nei Beehive. Sasemo rubata. Esatto, sì. Diciamo, vasi derubata. E ci serve. Quindi, ecco, e noi brocardo. Tra l'altro anche grazie a DR, adesso ci arriviamo, anche grazie al nostro DR100 siamo andati a carpire questo momento, prego maestro. Abbiamo Daniela, appunto, nello specifico, che si è intrufolata nella squadra avversaria, ok, perché parliamo di competizione pura e semplice, e che inevitabilmente si crea tra le squadre partecipanti a questa contest. Finalmente è chiaro a tutti. Altro che saggio di musica. E sentiamola. Eccola. La famosa frase del diavolo. A sbagli apposta. Ma non è questa, Daniela. Lo sapevo. Invece giocavo tutto. È l'acustica. E Virgi ci rovina lo scoop, perché cambiate rubrica, fatene un'altra. Sei arrabbiata. Ebbene, io ieri sentivo appunto in enoteca, mentre si chiacchierava amabilmente, i Beehive felici e contenti di questa partecipazione. Grande Daniela, partecipa, suona la chitarra nel pezzo dei Cranberries, di Zombie. Ebbene, a me è venuta in mente una frase, eccola qua, la frase del giorno, che si ricollega al brocardo. Grazie. Prego, prego. Un po' di enfasi. Time o danaos et dona ferentes. Un applauso. È ripartito anche applauso zombie, con bellissimo. Zombie, no, diciamo, cioè, applauso in questa occasione. Un applauso alla cultura, comunque. Perché, ecco, quindi sto brocardo cos'è? Abbiamo detto un... Questo è quello che, diciamo, Virgilio nell'Eneide fa dire a Laoconte, il sacerdote di Apollo, che diffida i troiani, diciamo, sconsiglia ai troiani di portare dentro le mura della città di Troia il cavallo, appunto. Senti che Daniele come è il cavallo. Grande Virginia, che subito mi piglia il gancio. Virgi che coglie il gancio. Grazie, Virgi. Finalmente, grande. Ma noi accogliamo per poi portare dalla nostra parte. Voi dovreste diffidare dalla cara e placida Daniela, che è entrata come un cavallo di Troia ed espugnare, diciamo, la vostra città. Ma aggiungi ansia e le così, vostre prove. Gabby si accolla questo dissing. Salutiamo Daniela, comunque, che ci ascolta sempre. Ciao Dani. Ciao Dani. Quindi il brocardo è una roba tipo. Inoltre una legge che dice che le tipo un aforisma. Sì, calzoni. È un aforisma. Aforisma giuridico. E mi venisse un colpo, calzoni lunghi. Leggi quell'altra, quella per i non piumati. E con la presente le bevande alcoliche sono proibite, pena alla catapulta. La catapulta. Questo è il nostro per sempre, la musica insieme. Pena alla catapulta, è un brocardo. Comunque anche questo. Posso dire una cosa, cioè c'è stato un brocardo anche dal lato dei gemelli Hologram, perché le ultime prove abbiamo avuto Virgin che comunque abbiamo fatto doppie prove, quindi un'altra ma qui c'aveva ragione Gabri, un'altra su questo caso, è bellissima, ha fatto un brocardo, ha fatto un brocardo. Allora questo mi fa capire che si è capito, si è benissimo capito, vabbè, sto brocardo non è andato male perché io ho fatto esattamente il cavallo, perché io sono andata di là a raccontare come vi vestite, perché così almeno abbiamo adesso ci arriviamo anche la giudia sto brocardo successione. Comunque, del come brocardo avrete capito, si può fare in padella, al forno, in pastella, per benjanina, romana, affogata al vino anche e allora dai, lanciamo su il pezzo, vai, che si chiama, ben si attacca di vino, Marta sui tubi, così che gancio, il vino, madonna. 180.345 sogni sono tutti sogni che farai nella tua vita se ti metterai a dormire almeno per 3 ore a notte, e questi aggiungerai quelli che fare ad occhi aperti. Quasi 11 metri di capelli cresceranno sulla testa, sulla quale ti farai 6.000 shampoo e cambierai 16 lavatrici e 15 computer con segreti che non sempre salverai. Almeno per 50 volte ti amo e finirai 300 volte da quel che dottore, prenderai 60.000 piccole pilloline, poi farai prenderle anche tu. Riempire un mondo vuoto si può. Andrò a letto con una ventina di persone delle 1900 che avrai conosciuto in giro e cambierai una decina d'auto e coprirai quasi 1.000.000 di volte la distanza fra la luna ed il tuo bar. Desidererai un'altra vita, un'altra donna, un'altra casa per tornare a fare finta che sia tua e piangerai 30 litri di lacrime. Questi numeri non servono poi a niente, perché i conti alla tua vita potrai farli solo tu, e chi non conterà su di te vedrai che non conterà mai niente. 20 persone che ami se ne andranno, ti chiederai se c'entrerà Dio o non basta un addio, non basta un addio. Perderai l'energia 400.000.000 di volte, verrai 1.000 birre e 2.000 bottiglie di vino. Ogni volta una grande emozione, ma come fa? Ascolto 100 Celle Avengers su Radio Forte. Radio Forte, è buona qui, è buona qui. Radio Forte, più del piacere della radio. E sempre in diretta su Radio Forte 100 Celle Avengers, hai capito? Quindi la cosa della cassa grande, grande, perché ormai mi sporca la messa non, in onda, non capito? Ha più segreti per nessuno, grande, è più indispensabile. Ormai, salutiamo anche ormai Giuseppe. Tutti i ruoli sono intercambiabili qui in diretta su Radio Forte 100 Celle Avengers alle 17:49 sì. Di volevo questo sabato 25. Contro... Saluta, prego. Sì, no, Giuseppe, che abbiamo appena sentito, anche lui allievo, ex allievo. Salutiamo di... Giuseppe con un applauso, musica, allievo di tanti saggi. Anche lui ci ascolta sempre, anche Giuseppe. Ci ascolta torna sempre. Presto giù. Ci ascolta sempre. E che succede? Che nell'intervallo musicale il canale Telegram, come spesso accade, è impazzito di proteste. Proteste degli ascoltatori, che per noi diciamo comandano. E beh, che certo. Si sono un po', diciamo, risentiti del fatto che la giornalista faziosa Gabri Grubi non abbia oggi portato il suo consueto, diciamo, cavallo di battaglia. Sento pure il telefono che mi squilla, cioè, pure sul telefono mi stanno chiamando per dirmi: ma perché Gabri non ha fatto cigni di Balacà? Perché Gabri non ha fatto cigni di Balacà? La rubrica, ricordiamo, che tratta plagi d'autore, diritto di plagio, eccetera, eccetera, eccetera. Però ha detto giuridico prima. Sì, ho detto vabbè, giuridico. Rimango sì, sempre sì, nel sì, mio c'è stato. Spera. E, se non che ho, diciamo, spegni il cellulare. In diretta come Fiorello, io rispondo al telefono. Tanto Gabri mi ha detto che copio Fiorello adesso. Che, no, vabbè, che è il mio modello Fiorello e quindi con, diciamo, come farebbe Fiorello, io lancio subito sovente, no, posso, prego, sì, sono contenta che la farei sovente. Tu in mia vece, prego. Allora, cigni di Balacà, questa volta dal Suano, a cura del Suano. Sigla ma papà papà guarda. Ma papà, è scritto nel vento. Ma papà, ma non lo senti? Che è uguale ai cigni del Balacà. E niente, con l'ansia che mi ha messo questa telefonata, ma che ho visto chi era, mi accingo a parlare di plagio d'autore. Oggi rubi le rubriche a tutti. Oggi insomma. Rubo la rubrica a Grubi, ma solo perché il pubblico ha fame di queste cose, il pubblico è fresco di Sanremo, vuole sentire gossips, indiscretions, cose di questo tipo. I plagi del resto. Viola è per noi, diciamo, il lato, diciamo, il lato amori, relazioni. Io vi parlo più delle questioni degli impicci musicali, delle reunion, come ho fatto l'altra volta, e questa volta del plagio. Ora me la vado a prendere con qualcuno che, poraccio, non è che cioè avesse tutto sto successo, cioè, insomma, quando andava a prendere Albano con gente che ci ha fatto i fantastiliardi, non ti senti il povero Leo Gassman, che male aveva fatto a me? Niente, cioè, tutto sommato quella che io provo è anche empatia, nel senso che lui mi è andato a parruccare, si dice parruccare a Roma per dire copiare, e un gruppo che mi piace, quindi nonostante lui forse abbia pensato che nessuno se ne accorgeva, noi siamo qui con i nostri fari illuminanti a scovare i furbetti di Sanremo, e a molti importa questa cosa, quindi è un servizio che ci sentiamo di fare anche col cuore, soprattutto uno degli artisti di Sanremo rimasti più nel cuore, sì, è rimasto nel cuore a tutti, penso che sarà arrivato pignantesimo, non lo so, ma era lui che ti ha chiamato sì, mi ha detto oh, senti, guarda, è andata talmente male che se me spigni pure con una cosa negativa purché se ne parli, e io dubito. Allora. Leo, grande Leo che ci ascolta, la moda del parliamo di Leo Gassman, parliamo di Leo Gassman, l'avevo già detto, probabilmente. Scusami. Figlio di zio, nipote, figlio. Ma di quale Gassman? Perché figlio di Alessandro, figlio del padre, non è all'epoca, raga. Il nipote del grande nonno. molto bene, anche perché per essere una proposta giovane non poteva essere altrimenti. Sta di fatto che mi porta questo pezzo che io analizzo prima, diciamo, nell'intro, perché lì ancora potevo pensare che non c'entrasse niente la questione, e questa è l'analogia. Sentite sta chitarretta accattivante. Quando mi hai letto la mano, e poi lui che canta, e va. Io ci ho sentito sta roba. Che dici, vabbè, la sua, mo vedete che sei fissato, perché mo questi chissà chi so questi. E in effetti non è che sono un gruppo come nome non reagisci quando lo senti, però in realtà hanno fatto un sacco di pezzi sulla cresta dell'onda attualmente, perché sono passati anche un po' dalla nicchia al mainstream, e sono i Biffi Clyro. Ora io vi faccio sentire un attimo, che non è che io ho detto che gli è piaciuto, secondo me, perché lui ha deciso di pigliare questa roba alla luce di quello che poi accade dopo. Quello che accade dopo è che il grandissimo Leo mi fa sto ritornello. Sai che uno lo uso per ridere i giorni di festa, il secondo mi fa tener duro nel mare in tempesta. E invece stesso pezzo, capisco cosa intendi, non ecco c'entrano niente, no? Quell'analogia che avevo sentito all'inizio già acquisisce un senso. Detto, vabbè, fregamogli pure il riffetto di chitarra, ma fondamentalmente quando è così io mi accanisco. E comunque vabbè, lo ringrazio perché mi dà modo di mettere a ragion veduta un pezzo dei Biffi Clyro, non certo di Leo Gassman. Anzi, spero che per il piccolo Leo questo sia di ulteriore ispirazione per Sanremo 24. Questa è Bubbles dei Biffi Clyro. Aren't aware our fables take us everywhere. I can't keep up with you. I can't keep up. I can't compete with history. We'll film a lie but dub our tale. The mystery must stay inside. Look at our homes, look at our lives. In control of the morning. In control of the sea. You are creating all the bubbles at night. I'm chasing around and trying to pop them all the time. We don't need to trust a single word they say. You are creating all the bubbles at play. There's a girl, there's a girl, there's a girl, there's a girl. She's down by the river. In her own creepy world. There's a girl, there's a girl. She's down by the river. It's time to consider that maybe. I only once upset my kin, accused him of a moral slip. Well, he came back and claimed to change. I know his life's the same again. I can't ask him again. I should let it go. You are creating all the bubbles at night. I'm chasing around trying to pop them all the time. We don't need to trust a single word they say. You are creating all the bubbles at play. There's a girl, there's a girl, there's a girl, there's a girl. She's down by the river. In her own creepy world. There's a girl, there's a girl. She's down by the river. It's time to consider that baby is a sinner. There's a girl, there's a girl. We'll be right back. Sempre in diretta su Radio Forte, Centocelle Avengers. Se n'è andata la prima ora di divertimento. Mi piace sempre dire questa cosa al giro di boa, a scavallare. Gabri mi guarda male perché siamo lunghi. E niente, oggi non è presa così. E la musica, la musica, la musica è morta. No, prima troppa, adesso troppo poca. No? E la musica non c'è, come direbbe qualcuno. È il momento di analizzare. Betty torna. Di analizzare. Bro. Ma oggi che è? Romp. Quella parte di musica, in effetti oggi un po' bullismo, quella parte di musica che non è la musica di insieme, cioè quel mondo bistrattato detto dei solisti, coloro che si esibiscono da soli, accompagnati da un maestro o più maestri, in un contesto, diciamo, avulso dallo sporcarsi e sudare insieme, che è tipico invece della musica d'insieme. Quindi che cosa succede? Che una volta costoro avevano anche una sigla, un po' che non la mandiamo, sono emozionato. Sigla! Oh, e all'interno di questa bellissima rubrica dedicata ai solisti io in realtà ci ficco anche un appello, diciamo, di cronaca, no? Siamo sul pezzo, siamo nell'attualità, siamo sempre nel domani, proiettati al domani, pescando dallo ieri. E quindi niente, che succede? Che domani ci stanno dei buchi da tappare. Abbiamo già chiesto, diciamo, a vari artisti di darci una mano. Un saluto da Luciano Ligabue, state ascoltando Radio Forte, questa è Centocelle Avengers. Però a parte questo cameo non poteva venire Luciano a cantarlo lui, il pezzo che ci serve. Non c'ha l'estensione, no? Ma secondo me la versione sua la poteva pure fare. Comunque sta di fatto che se non troveremo qualcuno che domani mi canti il musical Air nella specifica canzone di Pesci Aquarius, grazie. Succederà questo. E questo è il colpo basso per me. Air, piacigone. Sempre più difficile. Lo sciopero dei coristi in più, che era previsto per ieri, io non lo sapevo, mi sono presentato al lavoro così e sono arrivato mezz'ora dopo. E niente, quello che è successo non deve succedere. Quindi questo è un appello a tutti coloro che volessero venire a esibirsi in una sorta di karaoke con musica d'insieme. Questo è più che un appello, è una speranza. C'è però l'open mic, allora speriamo che Sofì possa venire. È già stato che confermato sia... che purtroppo la cantante non che la vera sarà... Sofì è qui con noi. Cioè, quindi vi siete presi anche il maestro. Questo è un doppio. È il maestro che non vuole essere preso. Mi sa. Io avevo detto che. Io vedo un doppio brocardo, sì. Timeo Danaos e Dona Ferentes. Vedo Temo Timeo pure io, ci fa questa cosa. Anche allora. I loro doni. Tutto il maneggio proprio. Tra le cose che, tra l'altro, che bisogna temere riguardo al saggio di domani è sempre la questione che riguarda i solisti, perché torniamo un po' sul pezzo, è che Biascicone accompagna anche diversi solisti. Quindi c'è, diciamo, che Timeo. Biascicone sei sempre tu, vero? Ti piace questa cosa di scindere le due parti? No, Biascicone è quel tipo che comunque abbiamo detto, quello vabbè, lì. Suona e quindi fammelo suonare perché la musica non si nega a nessuno. Certo. Quello dell'enoteca di prima di cui si parlava. Quello con nome e cognome. Vabbè. Comunque sì, si trattava di Biascicone che domani accompagnerà, come appunto nel pezzo che stiamo per ascoltare, accompagnerà diversi solisti e lo farà con lo spirito di colui che vuole appianare questa differenza che si è creata negli anni, che ha creato anche diversi malintesi fra chi fa musica insieme, che quindi ci mette, diciamo, tutta una sinergia che poi si prende la toppa insieme, si sbaglia insieme, ci si rialza insieme, con il solista che invece ha la garanzia del maestro che gli suona bene. No! Noi avremo il maestro che gli suona male, perché così vivranno in un certo senso tutte e due le cose allo stesso tempo.

nel 2020. Quindi si va a chiudere la rubrica solisti e non fa in tempo a chiudersi che si apre cosa? Virgi, aiuta. Apriamo, siamo al punto numero 8, se posso aiutarvi. Non so, oggi mi piace vero, seguire momento, la numerazione. È il momento di ringraziare Angelo. Aspetta, sì, facciamo, diciamo che adesso lo volevo solo dire che ci rintroduce prima che fai partire la, chiaramente la sigla di Artifici. Riprende il discorso su arte e committenza quest'oggi Angelo e ci parla in particolare di Giotto, quindi del rapporto che ebbe Giotto con la committenza, qualcosa che poi ci potrebbe tornare anche utile, chissà, a noi tutti, agli allievi di questa scuola di musica potrebbero ribellarsi ai committenti. Vabbè, in quel caso era arte, ma trattandosi spunti di musica sempre di come arte come se non parliamo. Ce ne fossero abbastanza già in questa scuola, la Marilyn Monroe Institute di Nanni Moretti memoria. Vabbè, per chi se lo ricorda, posso sì. Quindi? Sì, vai allora con Artifici, sigla! Grazie Angelo, non conoscendo affatto la storia dell'arte. Grazie Angelo, sempre gradevole, sempre importante. Grazie Angelo, ma ancora vorresti narrare la storia dell'arte. Bentornati tutti e tutte alla rubrica Artifici. Riprendiamo il discorso su arte e committenza e con l'analisi di opere specifiche, così da vedere in maniera puntuale come la committenza, come quanto la committenza abbia influito sul risultato finale. La volta scorsa abbiamo parlato della Cappella degli Scrovegni a Padova, affrescata da Giotto, discorso sull'inferno che serviva per terrorizzare coloro che entrando in chiesa, in una chiesa qualunque, perché dovunque sia stato realizzato un giudizio universale, la parte dell'inferno era in quel modo, cioè i peccatori, le anime dannate, tutte in preda, circondate da diavoli e diavolesse che li torturavano soprattutto nelle zone genitali. Facciamo un passo indietro, 10 anni prima, circa 1290, Giotto era stato chiamato per affrescare la Basilica di Assisi. Sappiamo che Francesco, dopo la sua scelta pauperista, aveva scelto una vita da mendicante, quindi vestito di stracci, viveva di elemosine e di stenti. Il Papa ha un po' resistito a concedergli l'autorizzazione a predicare, però poiché la sua regola era essenzialmente fatta da brani evangelici, il Papa non ha potuto dire di no. E Francesco ha potuto predicare la sua dottrina. Nello stesso periodo c'era un altro pauperista, un mercante di Lione, Valdo, che aveva avuto una vicenda simile a quella di Francesco, ricco mercante, aveva donato tutto e si era messo a predicare il Vangelo in maniera simile a quella di Francesco, però non ha avuto il consenso papale. Lui ha continuato a predicare e quindi è stato dichiarato eretico. Ora, dico questo perché è singolare il fatto che appena 2 anni dopo la morte di Francesco, avvenuta nel 1220, mi pare, giù di lì, 26, dopo appena 2 anni è stato proclamato santo. Non c'era tanta fretta, almeno in altre situazioni occorreva un po' più tempo perché si proclamasse un santo, ma lì l'esigenza nacque tutta all'interno dell'ordine francescano, che, i cui componenti ben presto si erano un po' seccate dalla regola troppo rigida, e di tutta la curia e del papato, perché Francesco costituiva una critica aperta al come vivevano gli altri preti e monaci. E proclamandolo santo lo si poneva in una posizione al di fuori della norma. La stessa cosa che è accaduta per Valdo. Quindi l'eretico pauperista e il pauperista che aveva avuto l'approvazione papale vengono messi al di fuori della norma. Così papi, vescovi, cardinali, preti e tutto quello che ne seguiva potevano dire: uno era eretico, l'altro è santo, noi non siamo né l'uno né l'altro, quindi viviamo normalmente, e ovviamente facevano quello che più a loro piaceva. Quindi Giotto viene chiamato per rappresentare Francesco e gli si impone di dare di Francesco una immagine totalmente diversa da quella che in realtà era stata. Sempre inserito in contesti urbani, vicino ai luoghi del potere o civile o politico, e solo in poche occasioni, cioè su 28 affreschi, 25 rappresentano Francesco inserito in città, 3 lo vedono inserito all'esterno, nelle campagne. In uno di questi affreschi, che lo riprendo dall'esterno, noto col nome Il Dono del Mantello, Francesco è insieme a un altro fraticello, cosa che si ripete in tanti altri affreschi, cioè lui e qualcun altro dei suoi, è sempre ben vestito, con un pesante mantello, col cappuccio, e in questo riquadro del Dono del Mantello c'è anche un asino, a sua volta con un grosso mantello sul dorso. I due, Francesco e il suo compagno, incontrano un mendicante infreddolito. Francesco, mosso a pietà, gli dà il mantello, non quello dell'asino, il suo, a riprova del fatto che evidentemente poteva averne altri dopo per coprirsi. Ma l'affresco che più mistifica la figura di Francesco, lo stravolge, proprio tenta di mettere in atto quella damnatio memoria di cui parlavamo, è Nel sogno delle armi. In un testo che era stato scritto in precedenza, scusate, si dice che Francesco aveva fatto un sogno, era in un grande palazzo, c'erano delle armi da guerra ovviamente, fregiate col segno della croce, e aveva chiesto di chi fossero quelle armi, e una voce celeste gli avrebbe risposto che quelle armi erano sue e dei suoi soldati. Ora, che cavolo doveva farsene Francesco, pacifista fino all'eccesso, di armi con la croce e di soldati? Il riferimento chiaro era alla quinta crociata, alla quale Francesco partecipò, nel senso che si unì al corteo che andava in Oriente, ma non per fare guerra, ma per parlare col nipote del Saladino e diffondere il Vangelo. Ecco quindi come la committenza ha determinato il contenuto dell'opera. Per fortuna il genio di Giotto si è sottratto ad un'altra indicazione, cioè quella di restare aderente alle tecniche precedenti, quelle che duravano da 1000 anni, e cioè rappresentare le figure senza volume, senza peso, senza corpo, niente che doveva essere rappresentato che richiamasse la natura, e invece Francesco tutto questo l'ha inserito, creando delle opere magnifiche che hanno segnato un distacco tra tutto ciò che era prima e tutto ciò che è venuto dopo. Una definizione fantastica del genio dell'importanza di Giotto l'ha data Sgarbi, che quando parla di pittura è accettabilissimo. Sgarbi che dice: Giotto fu per la pittura ciò che Dante fu per la lingua italiana. Mi fermo qua. Per chi è interessato, la prossima volta parleremo molto probabilmente dell'Ultima cena di Veronese. Se ve la guardate prima, forse sarà meglio, perché potrà esserci un dialogo più costruttivo. Grazie e buon proseguimento. Come BG, una radio forte, che con player solo quando gioco presto notte, c'entra c'è la Range Style. E niente, ci ha dato pure i compiti il maestro Angelo. Un grande papone. Che ringraziamo per il suo contributo preparato. Puntuale. E passiamo ad altrettanta cultura, introducendo chi mi sta alla estrema, qui all'estrema nicchia sinistra. Destra della regia di Radioforte, che risponde al nome di maestra professoressa Viola. Buonasera, esimia, a tutti. Esimia. Buonasera a tutti. Allora io, senza esitare, lancio la sigla. Lasciatemi leggere, sentire questa poesia. Vorrei e non so leggere, ho voglia di sentire questa poesia. Eccoci qua. Allora, io, diciamo, facendo un breve excursus e pensando al saggio del 2020, il famoso saggio di cui stiamo parlando questa sera, e mi ricollego, diciamo, parlando di questa, diciamo, di una canzone interpretata dalla famosissima Mina, e la Mina Nazionale, che io, diciamo, già provai a interpretare, diciamo, un suo pezzo appunto in questo saggio del proprio 2020. Nel 2020. Sì, sì, sì, sì. E il pezzo era, vabbè, la canzone era Un anno d'amore. Mi accompagnò il maestro Biascicone. C'era Biascicone pure lì. C'era Biascicone anche vabbè, lì. Che anno dopo. Viola, sì, dici, sì, sì. Come suonò poi quel maestro lì? Suonò bellissimo, fu un successone. Suona tutto, Biascicone. Fu bellissimo, poi Un anno d'amore, perché poi, vabbè, questa vita privata, vabbè. Quindi metto l'altra sigla, un Viola. Anno, vai. Un anno d'amore, no. No, vabbè. Mi concentro. E quindi, ecco, adesso parlerò di un altro pezzo appunto interpretato, famosissimo, una delle canzoni più famose di Mina, che è Se telefonando. E quindi immaginiamo questa persona amata, o comunque la persona per cui si ha una forte attrazione, davanti a noi in tutto il suo splendore, e con una cornice romantica, diciamo, che le fa da sfondo, e sogniamo appunto di unirci con lei in un vortice di passione irresistibile. E quindi sì, dobbiamo ringraziare Mina per questa interpretazione, ma diciamo soprattutto dobbiamo ringraziare chi scrisse questo pezzo, che ahimè è il grande Maurizio Costanzo e anche Ghigo De Chiara, che erano gli autori del programma radiofonico all'epoca, nel 1966. Il programma era intitolato Aria Condizionata, e di cui questo brano appunto Se telefonando era proprio la sigla. Musica e arrangiamento invece furono di Ennio Morricone, il quale ha dichiarato di essersi ispirato al suono delle sirene della polizia di Marsiglia per comporre l'inciso. Genio. Wow. La genesi della canzone sta raccontata da Maurizio Costanzo in un'intervista. Diciamo, al momento della registrazione, sia gli autori che Mina stessa si resero conto che un verso, cioè "poi nel buio la tua mano d'improvvisa sulla mia", poteva dare adito a doppi sensi, a dare motivo alla censura molto rigida in quegli anni di intervenire. Quindi la registrazione fu sospesa e venne dato incarico a Costanzo di operare una correzione, che alla fine fu minima, e quindi la canzone poi era questa: "poi nel buio le tue mani d'improvviso sulle mie". E al momento della registrazione effettiva fu Mina a proporre di incidere entrambe le versioni. La seconda, con la correzione, fu quella pubblicata e che ebbe poi molto successo. La prima versione fu messa da parte e pubblicata solo nel 1999 nella raccolta Mina Gold 2. Ma quindi analizziamo questa canzone. È estate, è notte, siamo in un posto di mare, spalancata sul mar. Un ragazzo e una ragazza si sono appena conosciuti, quindi di fatto sono ancora il mare, scusa. Bello, questo era il mare, vabbè, questo è per i sognatori, quindi anche immaginatevi il mare. Allora, ti posso dare un sottofondo? Sì, grazie. E quindi di fatto, diciamo, sono ancora quasi sconosciuti questi due ragazzi, come sottolinea la stessa canzone. Provano un'improvvisa attrazione fisica che li porta inevitabilmente ad avere un rapporto occasionale, poi nel buio le tue mani d'improvviso sulle mie. Niente di strano per molti, se non fosse che andando avanti nella canzone scopriamo che improvvisamente nella mente della donna qualcosa cambia. Non ci sono dubbi sul fatto che la canzone sia cantata dal punto di vista della donna e non dell'uomo. Questo lo si capisce dal verso: se io rivedendoti fossi certa che non soffri, ti rivedrei. Improvvisamente si rende conto che quello probabilmente non è stato un semplice atto fisico, ma c'è qualcosa di più, forse un inizio di innamoramento? La ragazza forse è quasi spaventata da questa sua strana reazione, non sa bene come comportarsi, tanto da non avere neanche il coraggio di richiamare il ragazzo. O meglio, capisce che se lo richiamasse potrebbe portare il rapporto ad un livello molto diverso e più vero, e dunque dare al rapporto occasionale una veste indesiderata di serietà morale. Tutta la canzone ruota attorno a questi pensieri: vorrebbe chiamarlo, rivederlo, risentirlo, ma è spaventata dalla reazione che potrebbe avere il ragazzo e in primis dalla sua stessa reazione. Le strofe della canzone lasciano intuire che lei ormai è innamorata, troppo presa da lui, tanto che non riuscirebbe a mettere fine a tutto. Se guardandoti negli occhi sapessi dirti basta, ti guarderei. Ma si scopre anche non in grado di rivedere, risentire, rincontrare il ragazzo, e dunque prende la decisione di lasciare andare tutto. Il nostro amore appena nato è già finito. Una canzone che è un contrasto continuo di emozioni, un incontro banale senza pensieri, che diventa improvvisamente importante: la speranza di rivederlo, la paura nel rivederlo, la voglia di rincontrarlo per salutarlo, consapevole del fatto che però non riuscirebbe a dirgli addio. Un amore appena nato che però è già giunto a termine. E grazie. Diciamo che questa negli ultimi giorni è stata la canzone, soprattutto diciamo i cantautori, i cantanti, ecco, sui social, tutti per ricordare Costanzo appena scomparso, diciamo, è stata la canzone che tutti postavano e ripostavano, ripostavano. Tu, No, no, io già sapevo che era stata scritta da Costanzo, cioè a me Mina è una delle, vabbè, delle cantanti che e già abbiamo fatto una puntata di pubblicità intera. A lei che faceva la pubblicità. Ma ne era granché come pubblicità per lei. Ah, bellissima. Vabbè, comunque, quindi ecco, ho omaggiato tutti i cantanti, cantautori che conosco, che non conosco e che a cui piace Mina, e niente, sono legati anche alla figura di Costanzo, che comunque fa parte della nostra infanzia, diciamoci la verità. Ma infatti non è stato cioè, insomma, ci ha colpito tutti, ci ha colpiti tutti, ci ha colpito tutti e ha generato cosa? Un trauma. Un trauma, certo. Quindi a gamba tesa così. Ma maestro, prego. Quindi dopo mettiamo. No, sì, sì, è quella. Sei riscordato. È quella che stavamo per sentire. Ah, la canzone, ecco, di ecco, parafrasata ecco. Centimetro per centimetro dalla maestra Viola. E anche lei ci dà i compiti come maestro Angelo per la prossima, sì, volta, mi raccomando, maestri. Parleremo dell'amore, venite preparati per favore. Lo stupore della notte spalancata sul mare ci sorprese che eravamo sconosciuti. Io I'm E sempre in diretta su Radio Forte, Centocelle Avengers. Non mi ero per niente dimenticato di mettere questo pezzo di musica, questa pietra miliare della musica che nessuno sta trasmettendo in questo momento nelle radio. Vogliamo distinguerci di tutta Italia, noi mai banali ci distinguiamo, e quindi niente, mandandolo. Tu hai fatto il tuo omaggio, io comunque ho rivissuto quello che intendevo dire prima, cioè un trauma, e la rubrica è Traumi Fonici, sigla. Sei fregato. Che cazzo state dicendo? Andiamo! Sono il vostro fonico! Siamo nella valle, bello. Ci sono un sacco di fonici qua. E in questo piccolo lasso di tempo io traghetto soltanto verso altri orizzonti, sottolineando il fatto che ho avuto questa fortuna, dopo anni che non lavoravo per la produzione anche di Amici di Maria, come ho detto più volte, ma soprattutto di Maurizio Costanzo, ho lavorato nell'ultima puntata fatta dal Sor Costanzo ti sei confusa? Sì, hanno fatto quei due? Volevo... A fine dell'anno scorso e niente, ho rivissuto magicamente quelle cose dalle quali mi ero allontanato, perché appunto con la ditta con la quale lavoravo ai tempi ho tagliato i ponti e non mi vivevo più da tanto tempo questo clima che c'è all'interno della Fascino, lo possiamo dire nome di ditta, nome proprio di ditta. Che è leggermente un clima colpevolista, tagliagolista e insomma fanno rotolare capocce come niente. Quindi quel giorno subito io che andavo a sostituire uno, al secondo minuto di trasmissione finita la sigla, al primo che tra il pubblico ha detto voce, perché non sentiva evidentemente abbastanza bene, sono partiti tutti i vari producer della appunto suddetta Fascino e sono saliti su dove era il fonico di diffusione, si sono messi lì solo per rasserenarlo. Nel frattempo mi squillava al telefono, cioè tutta una serie di cose che sono successe in un millesimo di secondo, perché questa è la loro caratteristica: quando sbagli Pina Cappella ti escono fuori dal tombino sotto e tu niente. E niente, questo è il piccolo trauma che mi ha risvegliato la maestra Viola con la sua... Vabbè, la scomparsa di Maurizio. Sì, insomma, la scomparsa di Maurizio, ma soprattutto Viola che ha voluto omaggiare un po', giustamente, un po' così. Ce ne sarebbero da dire su un personaggio, non è perché se è andato che non possiamo ricordare... diciamo l'ambiguità del personaggio, ma vabbè, questo è un po'... Ma diciamo soprattutto che tu c'hai un aneddoto per tutto, quindi... Sì, no, cioè, vabbè, fatto sta che tu ti ritrovi sempre in mezzo a... No, vabbè, a queste storie, ecco. Comunque mi ritrovo anche in mezzo alla crew di Centocelle Avengers quando si fa il brainstorming, e vi ricordate i rimastoni, i ripescaggi, le cose, parliamo di questo, parliamo di quello, insomma la scorsa volta eravamo, cioè c'è un problema, insomma eravamo a Carnevale quando non andavamo in onda, adesso andiamo in onda e facciamo soprattutto il saggio che rievoca il saggio quello che fu, che era sì de Carnevale, ma non si capisce, pare che non si mascheramo, cioè alla fine quello che è successo è che abbiamo inizialmente detto vabbè, ma che ce frega noi con la nostra goliardia, con la nostra allegria, la musica, le cose, solo noi ci mascheriamo uguale perché noi siamo noi, invece alla fine ci tenevano tutti a farlo entro l'ufficiale martedì grasso vero e proprio. Secondo me vi dovete mascherare, e quindi siamo niente, essendo scavallato quello, cioè, sono partite emozioni tipo ci mascheriamo ma poco, ci mascheriamo ma soltanto all'ultimo pezzo, cioè cose che insomma un po' timidamente vanno, e così come appunto la scorsa volta si parlava della paura dei film horror e si andava a mezzo nel carnevale, mezzo nei film horror, non sapevamo dove andarci a barcamenare, e ci siamo detti ma parliamo dei mascheroni, i gruppi quelli con le maschere. Quindi c'è gente che ci mette la faccia tutti i giorni, o ce la metteva perché non so se stanno ancora, comunque in ogni performance erano mascherati, in questo caso parliamo dei Kiss, e la canzone che andiamo a sentire è Strutter, su Radio Forte, Centocelle Avengers. Radio Forte, 100 Celle Avengers, sempre in diretta. Abbiamo appena scoperto che non bastano 35 minuti per fare una rubrica, perché no, a volte... No, non ho detto questo, ma perché ogni volta vengo... Come diceva Berlusconi, sono stato... No, nel senso, sono non stato... sei ancora nella zona Cesarini che tutti amano, quindi ancora sono le 18.38 e potrebbe, sei stata volendo... Ve faccio saltare tutte le rubriche. Un CSI 100 Celle, a meno che poi non moriamo tutti e lo fanno su di noi. Ma prima... Ma prima noi dobbiamo girarci. Dobbiamo girarci e salutare un ossequio. Un applauso. Un applauso, applauso ad Alessandra. Perché finalmente è venuto uno studente a metterci la faccia. Un allieva. Direttamente. Ti devi avvicinare a un microfono. Allora ecco, prestiamo. Allora mettiamo un sottofondo adeguato per questa circostanza. Direttamente dal mondo delle batterie. Beh, direi che è il momento di The Club! Benvenuta! Nome! Eccola, sistemiamo la cuffia. Prego, abbiamo si mette il la microfono. Cuffia, scusa, sono partito troppo presto. Nome! Alessandra. Strumento. Batteria. Nickname. Non ce l'ho. Qual è la prima cosa che guardi nelle persone? Povera Alessandra, ma perché sono passata a stare a pensare? Io sto leggendo, Le mani. Le mani! Abbiamo un le mani, ragazzi. Il tuo tallone d'Achille, questa è l'ultima. Anche detto tallone da killer. Tallone da killer. Non saprei, ragazzi. Un bel applauso. Bravissima! Abbiamo schiacciato la batterista, ma è sempre comunque... Era la nostra batterista Alessandra, che... Era solo passata a fare un saluto. Assieme ad Alessandro svolge la funzione di propulsione ritmica nei Beehive. Ricordiamo detti anche gli Alles, perché abbiamo un batterista Alessandra, una cantante Alessandra, un batterista Alessandro, un maestro Alessio, gli Alles. Avevamo anche detto la cosa bella, che sono uno destro e uno mancino, anzi una destra e uno mancino, e che i pezzi che c'hanno, quei quattro pezzi che c'hanno, non è che l'hanno messi due e due, hanno messo uno. No, uno. Non è vero, quindi il cambio palco sarà... No, non è stato sistemato. Vabbè, ma io sono di un'altra squadra, niente. Io faccio sabotaggio anche io. Timeo, com'era? Danaos. Timeo, Virginia. Danaos, Virgios. E quindi Virgi? Quindi Virgi? Quindi hai deciso? Vado, parto... Secondo me sì. Vai, Virgi. Lo dico, e allora, sigla. De che? Sì, e sai, 100 celle, scusate. Come lo dicevo? Alle ore 16 di domenica 24 agosto io ho ucciso la signora Augusta Terzi con fredda determinazione. Si ricorda quella signora in via del Tempio che è stata uccisa? Beh, l'ho uccisa io. Sono un assassino. Mi guardi. Capita tutti i giorni di vedere a 20 centimetri di distanza la faccia di un assassino. Vi dovete spaventare! Tengo alzato, tengo abbassato, io introduco così con la grazia che mi contraddistingue. Sembra l'inizio di Ghiacciano, la sigla giapponese. E invece stiamo ascoltando la colonna sonora di Killer Clowns from Outer Space. L'ho detto? Benissimo. Dio. Ebbene sì, perché noi siamo, diciamo, a carnevale finito, ma nessuno lo vuole accettare in realtà, calcolando che poi il saggio di domani, abbiamo appena detto che insomma ci sono un po' di controversie su come vestirsi. Noi facciamo finta che almeno qui siamo in pieno clima carnevalesco e parleremo nella rubrica Crime. Ma la musica non è un po' alta? Scusa, cioè, faccio frustare subito il tecnico, hai ragione. Scusate. Grazie. Dove ero rimasta? Parleremo di quello che caratterizza il carnevale, ma in chiave crime, ovvero quegli spassosissimi clown. Oggi nella rubrica crime, quindi in CSI 100 celle, parleremo di un clown assassino o quasi. Parliamo di John Wayne Gacy. Mi prendo qualche minuto per parlare di questo personaggio molto molto controverso. Spero di non sovrappormi agli altri, farò del mio meglio. John Wayne Gacy John Wayne era proprio il suo nome. Nacque... John Wayne? Esatto, lui era proprio John Wayne, era l'unica altra Francesco persona Dotti che lo poteva Biascica. Dire. Francesco Dotti Biascica. Nacque... Francesco Dotti Biascicone, ora la smetto e comincio a parlare. Nacque a Chicago il 17 marzo del 1942. La sua vita purtroppo fu subito sconvolta da traumatici e significativi eventi accaduti nel corso della sua infanzia. Da piccolo, infatti, John era un bambino sovrappeso che subiva continue molestie fisiche e psicologiche da parte del padre alcolizzato e veniva sempre confrontato con le sue sorelle ritenute molto superiori a lui, dato che lui, appunto parole del padre, era considerato un bambino stupido, grasso ed effeminato. Ma iniziamo con i traumi, visto che questi non erano traumi abbastanza importanti. A 7 anni il padre di John lo frustò dopo averlo sorpreso intento a scambiarsi effusioni in pubblico con un altro ragazzo e una giovane prostituta. A 7 anni. Capisco. A 9 anni. C'è Iron Man, Man che è presissimo da sta rubrica. Lui è un meccanico, mi capisci? Lui ti segue. A 9 anni. Quindi 2 anni dopo. Triste. Gacy fu molestato sessualmente da un amico di famiglia. Ma John non lo raccontò. Anzi, John Wayne non lo raccontò mai ai genitori. A 11 anni John sbatté violentemente la testa cadendo dall'altalena sulla quale stava giocando e questo, andando avanti nel tempo e nelle puntate che faremo di CSI 100 celle, scopriremo che sarà un punto in comune con moltissimi serial killer. Diciamo che non è un colpo alla testa che fa un serial killer, ma sicuramente ritroviamo tanti serial killer che hanno avuto più di un trauma cranico. Ma quando si dice ma hai preso proprio una brutta botta in testa. C'è un grande fondo di verità in questa cosa, sì. L'incidente infatti gli causò un forte ematoma cranico che non venne diagnosticato fino a quando non compì 16 anni. Nel tempo trascorso tra il trauma e la diagnosi, Gacy soffrì spesso di forti mal di testa e di perdita temporanea della memoria. Poi il ristagno di sangue venne rimosso chirurgicamente a 17 anni, ma gli venne diagnosticata anche un'insufficienza cardiaca. Quindi siamo ai soli 17 anni di vita. A 18 incominciò a interessarsi alla politica e questo è stato un trauma, diciamo che non è un trauma che lui si è... un trauma per gli altri, esatto. Diciamo, è stato esattamente lavorando come assistente del candidato del Partito Democratico del suo quartiere per non incappare nell'ira del padre e quindi per scappare dalle grinfie appunto delle violenze psicologiche, almeno psicologiche, che gli venivano fatte dal padre. Ma passiamo immediatamente alla sua prima incarcerazione. Siamo nell'agosto del 1967 e John Wayne Gacy commise la sua prima aggressione sessuale ai danni di un 15enne figlio di un suo conoscente. Svariati altri ragazzini poi nel corso del tempo furono molestati sessualmente da Gacy, ma solo nel marzo del 1968 il primo ragazzo che lui molestò informò finalmente la polizia. Gacy venne arrestato e incriminato per molestie sessuali e sodomia, che all'epoca a quanto pare era un... vabbè. Andiamo avanti. Gacy negò fermamente ogni accusa e richiese di essere sottoposto al test della macchina della verità. La sua richiesta venne accolta, ma il risultato del test indicò che Gacy appunto stava mentendo. Il 30 agosto dello stesso anno, del 68, mentre era stato rilasciato in attesa dell'udienza processuale, convinse dietro pagamento di $300 un 18enne suo impiegato per scoraggiare la testimonianza al processo del ragazzo che era stato molestato da lui, che si recò e diciamo che venne portato in una zona isolata dal 18enne di un parco cittadino e venne pestato selvaggiamente. Questo ragazzo gli urlò anche esplicitamente di non testimoniare al processo contro Gacy e appunto preso dal senso di giustizia, questo ragazzo comunque riuscì a informare la polizia e Gacy fu quindi arrestato con l'aggravante di aver cercato di intimidire un testimone. Dichiarò anche di non essere assolutamente omosessuale, bensì bisessuale, come se fosse una motivazione, insomma, per non lo so, levargli vabbè. Cioè, questa puntata sarà piena di vabbè. E, venne comunque giudicato colpevole del reato di sodomia ai danni di un minorenne, quindi di pedofilia, il 3 dicembre del 1968 e condannato a 10 anni di carcere. Dopo 18 mesi però venne liberato sulla parola con altri 12 mesi di libertà condizionata e quindi in completa libertà ci fu rimesso nel 1971. Da lì in poi, anche se non mancarono le accuse, Gacy divenne molto attivo nel settore sociale della comunità, spesso offrendosi di intrattenere i bambini durante le feste, e infatti qui ci arriviamo, vestito da clown. E lo volete chiamare? Magari c'è ancora... Cioè, ancora posso, scusa, posso dire una cosa? E io ieri a scuola che mi sono fatta venire paturnie perché ho fatto vedere a dei bambini di prima dei video di Lady Gaga, vabbè. Cioè, no, ho pensato che mi arrestasse. Lady Gaga, pazza! No, no, lui invece andava a intrattenere storia. I bambini, sì. Vestito da clown. E qui vi volevo, infatti. No. Ecco... Ecco il vero motivo per cui nell'immaginario collettivo sono venuti fuori i killer assassini. Da lì in poi, appunto, abbiamo avuto una pletora di clown che, appunto, alla fine non erano poi così tanto buoni sia nel paranormale, sia nel surreale, sia nella realtà, anche se nella finzione. Ma andiamo per gradi. Gacy divenne membro di un Jolly Joker Clown Club, i cui membri volontari erano tutti mascherati da pagliacci e si esibivano regolarmente senza scopo di lucro in varie manifestazioni. A quanto pare non si esibivano negli ospedali, quindi Patch Adams per ora è salvo da tutto questo. Mamma, che incredulità. Eh sì, tante manifestazioni, ma non negli ospedali. Nella fine del 1975 Gacy creò il suo personaggio e il personaggio si chiama Pogo the Clown. Si disegnava da solo i costumi e ideò personalmente il suo trucco. Si esibì come Pogo nel corso di diverse manifestazioni, appunto. Prima e dopo la comparsa di questo nuovo personaggio, appunto Pogo il Clown, abbiamo uno scenario parallelo della vita della persona che era dietro al pagliaccio, ovvero vi parlerò principalmente della prima vittima, Timothy McCoy, per farvi capire come questa persona ruppe il suo tabù di non uccidere. Fu tutto frutto di un equivoco. Gacy raccolse da una fermata del bus il 15enne McCoy, lo portò a casa sua e non ci fu alcun problema fino alla mattina dopo, quando il ragazzo si presentò sulla porta della sua camera svegliandolo e con un coltello in mano. Gacy lo spinse e venne ferito per sbaglio ad un braccio. Così, dopo una dura lotta, si ritrovò ad accoltellarlo ripetutamente, però, al petto. Quindi, legittima difesa fino a una certa. Purtroppo, da questa azione, Gacy scoprì che ne aveva tratto anche piacere sessuale. E il suo tabù fu rotto. Ma perché ho parlato di equivoco? Perché in cucina Gacy, una volta finito di uccidere il povero McCoy, trovò uova e bacon per la colazione che il ragazzo gli stava preparando. Però che carino. Però ormai il danno era fatto. Timothy McCoy fu il primo che venne sepolto da Gacy e venne sepolto in cantina. Il primo di una lunga serie di sepolture in cantina, nel cortile e nei dintorni di casa sua. Brrr. Da adesso in poi dell'orrore proprio. My God, my truce. È tutto vero, è tutto vero. Abbiamo una domanda. E questo lo rende ancora più truce. Il fatto ma che è vero. Lo sai che secondo me, a me mi sa di sì. Prima dai. O dopo la sepoltura? Aspetta, dipende se era già pronta però. Perché magari stava lì. Oppure era andata male. Sa. È stato un tragico equivoco comunque. È stato un tragico equivoco, però gli è piaciuto tanto. E quindi lui ha deciso che questa cosa, a quanto pare, doveva fare parte della sua vita. Che vita. Infatti da adesso in poi Pogo non si fermerà più. O meglio, dopo altre due vittime ci fu una piccola battuta d'arresto da parte di un ragazzo che riuscì a scappare e a metterlo al tappeto, ma che poi fu convinto a liberarlo. Un paio di settimane dopo uccise un altro giovane, sua moglie chiese il divorzio, la lista si iniziò a intensificare, dopo due anni ci furono tantissime vittime e dopo due anni subì la successiva battuta di arresto con un altro ragazzo, che stavolta lavorava nell'esercito, che riuscì a liberarsi e a scappare, ma anche lui non rivelerà nulla. Siamo nel 77, sono passati 10 anni dalla prima aggressione che Gacy fece e circa 6 ragazzi sono stati uccisi solo in quest'anno. Gacy inizia ad avere dei comportamenti sconnessi nella sua dinamica omicida, perché come impareremo nel corso di queste puntate ci sono delle dinamiche nei killer che vengono sempre riproposte. Lui iniziò a essere sconnesso e a quanto pare confuso, prima infatti uccide il figlio di un sergente di polizia e poi riporta a casa vivo un ragazzo precedentemente violentato e torturato, che infatti racconterà tutto, ma non verrà creduto. C'entrava per caso qualcosa la politica, ecco perché parlavo di trauma poi esterno. Bravo, bravo, mettili che piangono tutti. Portiamo via i bambini, per favore, me l'ho scordato questa cosa qua. Sto andando lunghissima, vero? Io avevo detto, però. No, sono 53. Io avevo detto. Io avevo detto. No, vai, no, Virgil, perché... crediamo in te. Del resto ci hai terrorizzati. Mi è risalita tutta la puntata horror dell'altra volta. Ci hai impietriti. Vado un pezzetto avanti. Allora, vabbè, siamo nel 78 e lui dovette smettere di seppellire le sue vittime sotto casa, ma iniziò a gettarle nel fiume. Ecco. E qua iniziò a essere piano piano scoperto. Ma perché ce n'erano troppe? Ho letto 33 in tutta la sua carriera. Esattamente. Ma mi fai gli spoiler così? Ah, scusa. Da mo', cioè, stavo ancora a 12, perché tipo. Io mi sto proprio, capito, da quest'altro lato c'è passione. Ci siamo alla 33esima. Infatti è questo l'anno in cui verrà arrestato e ufficialmente ci saranno 33 vittime sul suo groppone. Fu preso perché l'ultimo ragazzo ucciso aveva raccontato che sarebbe stato da Gacy quella sera. Così quando la polizia arrivò in casa per cercarlo, in casa di Gacy, e sentì l'odore che proveniva dai pavimenti, tutto fu svelato e i cadaveri scoperti. Mamma mia. Proseguiamo un po' con l'inquietudine al volo. Infatti Gacy in prigione amava dipingere. E cosa dipingeva, voi vi starete chiedendo? Amava dipingere i clown. Quindi io chiederei ufficialmente ad Angelo una puntata di artifici su questo, perché ce ne sono tantissime. Sono state fatte svariate mostre e... Sulla dei clown. Sì, no, sui quadri suoi proprio. E infatti quando venne eseguita la sentenza di morte, i suoi quadri poi vennero venduti all'asta e alcuni, appunto, alcuni curiosi, alcuni morbosi si presero questi quadri. John Wayne Gacy morirà nel 1994 e le sue ultime parole saranno "Kiss my ass". Ecco, grazie a chi oggi abbiamo avuto romanzi, poi lungometraggi come Hit, o musicisti come Madonna, Wayne Gacy, detto Pogo, e il tastierista di Marilyn Manson. O possiamo andare avanti con capolavori appunto come Killer Clowns from Outer Space, da cui abbiamo ascoltato la colonna sonora durante questa lunghissima rubrica. Vi lascio e... con un piccolo... brividi. Mi ha fatto venire in mente anche il film Joker. È sì, che non l'ho abbastanza. Mai visto. Beh, guarda, perché là c'è cioè, una città. Non sono riuscito manco a finirlo. Perché... sì. Capito. E con, vi volevo lasciare ricordandovi che John Wayne Gacy, quando gli vennero mostrate le foto delle sue vittime, dichiarò di non ricordarsene assolutamente nemmeno una. A me non si ricordava molto, proprio per i suoi traumi di memoria, del suo passato, tranne cose che riguardassero la politica o i clown. Prego, possiamo passare magari pezzo. Senza pezzo, possiamo passare non alla prossima rubrica. Mandiamo i Pennywise con Violence Never Ending. Almeno così per temporeggiare. Sono ancora traumatizzato. Sempre in diretta su Radio Forte. C'ho altre due cose da dire. Scherzo. Sono nella zona Cesarini. Questa volta c'è finito Franci. Che cosa Eccolo. Ci lanci, Franci? Perdonami. Mi lancio la sigla super velocemente. Vai. Nel corso della nostra esistenza andiamo alla ricerca di parole che riescano a descrivere adeguatamente le continue perturbazioni dell'ordine e del caos dell'intero tessuto del cosmo. Auspichiamo la conoscenza, la rivelazione, la catarsi. Per questo esiste la filosofia. Ma la filosofia si fonda sulla matematica e solo la matematica può farci intuire la verità dell'universo. Non avete fatto altro che scrivere tutti i numeri di 216 cifre tentando di decifrarli, di intonarli. Non è vero? Quel numero non è niente. Non siete voi prescelti. L'ho trovato io. L'ho trovato io. E io solo l'ho capito. Sarò io a vedere Dio. Mi sembra un po' fuori del programma, poi magari non a tutti interessa. Sì, interessa. E eccoci qua. Allora, un po' di Beroni. Allora, mi ricollego un po' a quello che ha detto Virgi, cioè, più che altro al clima che ha instaurato Virgi, quindi continuo con il tema della paura, perché l'algebra fa paura, ragazzi miei, perché non solo agli studenti, alle prese con parentesi tonde e quadre, equazioni polinomiali e coefficienti, integrali e quant'altro, ma a quanto pare fa paura anche al cinema. Perché a quanto pare è sufficiente tradurre in espressione algebrica alcuni elementi per ottenere un film horror con tutti i crismi. Questi sono un luogo isolato, una colonna sonora inquietante, un inseguimento a sangue, un inseguimento e sangue a volontà. Questo secondo uno studio del King's College di Londra, che per l'appunto ha elaborato una formula algebrica in grado di fornire di sostrato scientifico la ricetta per un horror coi fiocchi. L'equipe di studiosi in questione, diretta dalla matematica Anna Seeler, ha trascorso 2 settimane ad esaminare una selezione di thriller di culto, come ad esempio L'Esorcista, Il Silenzio degli Innocenti ed altri, con il risultato di individuare 4 elementi fondamentali per la creazione della suspense: l'escalation musicale, l'ignoto, scene di inseguimento e la sensazione di intrappolamento. Questi primi 4 termini, diciamo, compongono la prima parte dell'equazione, quindi è la somma di questi elementi elevata al quadrato. A questa prima parte è sommata un altro elemento, cioè lo shock. Ad esempio Shining è risultato il prototipo ideale di film di paura, proprio perché è caratterizzato da una suspense che cresce sull'onda di premonizioni e flashback. Un altro aspetto imprescindibile affinché un film sia davvero terrificante, sempre secondo questa formula, è una sceneggiatura credibile. Questa circostanza spiega la seconda parte dell'equazione, che vede la somma di verità e fantasia divisa per 2, al fine di trovare una sorta di media, diciamo, fra una trama poco credibile e una troppo reale. Ulteriori elementi utili per far accapponare la pelle sono un ristretto numero di personaggi, un luogo isolato, al buio, tutti elementi caratteristici, ad esempio, indovinate un po' di quale pellicola? Di Psycho. Tuttavia, osservano... Applausi. Sì. No. Tuttavia... erano nel mio cuore. Incredibile. Ma che per caso sta a mettere fretta? No, è partita da sola, scusate. Sei spaventata perché stiamo parlando di cose troppo... tuttavia, osservano i ricercatori, è bene evitare l'inserimento di personaggi troppo stereotipati ed un eccessivo spargimento di sangue, e questo, diciamo, è espresso con l'ultima espressione di seno alla X meno 1, diciamo. Un esempio è Lo squalo di Steven Spielberg, in cui, proprio viene citato testualmente, Spielberg ha fatto un ottimo lavoro, ha spiegato Anna Seeler, mostrando agli spettatori sangue a sufficienza perché lo squalo bianco li spaventasse, ma al tempo stesso non tanto da renderlo repellente al pubblico. E niente, io ma avrei, come fa? Oggi è stata proprio veloce. E non so se abbiamo tempo di lanciare il pezzo. Chiedo a... Sei stato proprio bravo. Basta. Sto triangolo. Cioè, comunque l'ho già sentita anche io questa cosa. Un déjà vu. Questo sei stato molto bravo, ma ne parleremo la prossima volta. Un applauso a Franci, che comunque in zona Cesarini ha chiuso anche la sapienza matematica. Io amici, è stato bellissimo. Grazie, settimane ci faremo ascoltato. Un saggio sulle spalle. Venite domani a saggio, venga a cantare Aquarius. Che emozione. Materializzatevi da ogni dove domani qui a partire dalle 20. Anche in diretta su Radio Forte. Sì, siamo in diretta. Sigla. Ciao. Sigla.